fuori il primo video estratto da X-Tape volume 2. Noi, Simo X, Andrew's Right, Mad Boys, e siamo noi, quelli per strada, quelli al lavoro, quelli a casa, siamo sempre noi. Da ragazzino mia mamma e mio papà mi hanno provato a insegnare come affrontare la vita. Mi hanno detto che è troppo facile a quell'età commettere l'errore di pensare di averla capita. Gli sprufoni non ci sono andati a genio mai, spesso falsi all'apparenza, tosti poi primi codardi. Stavo con quelli che erano considerati bastardi, con due coglioni che te manco se paghi ce l'hai. La prima volta che ho litigato con mio padre era perché secondo lui stavo prendendo brutte strade. Accade che scelgo con chi condividere le giornate. Puntualmente sceglievo le compagnie spericolate. Frate, noi non ci arrendiamo alle prime difficoltà, noi che se vogliamo una cosa andiamo a prendercela. Noi che continueremo sempre anche se tu dici di smetterla. Non smetto e sto con la gente che si ribellerà. Noi siamo quelli che non vogliono crescere mai. Noi quelli che hanno sempre combattuto col mondo. Noi quelli che c'hanno la calamita per uguale. Se qualcosa va bene la gioia dura un secondo. Noi che se qualcosa non è giusto lo diciamo. Noi che se ci dicono strazzetti gridiamo. Noi che ad ogni minima occasione festeggiamo. Noi che anche se ci giudichi noi non ti giudichiamo. So quello che mi dà la forza, vedere un fra che resta vero anche se questa vita gli va storta. Non sporca la coscienza e porta avanti ciò in cui crede, anche se il mondo che c'è attorno questi sforzi non li vede. Ciò che direte non mi importa, perché io faccio parte di quelli che han sempre fatto da sé. Fai da te, fai per tre, non è solo un detto. Nel bisogno il circolo dei tuoi amici si fa più stretto. Non ti fidare di chi ti promette, non abusare di chi è bravo con te. Noi disprezziamo la gente che si vende nella vita, nel lavoro, nell'amore, nel rap. Puoi anche raccontarmi cazzate per sempre, ma guardami negli occhi, fra lo sguardo non mente. Lo si sente subito se hai avuto tutto oppure no. Noi siamo quelli sempre senza un euro in tasca, però cammineremo a testa alta per le vie del quartiere. Noi siamo quelli che van fuori per gli abusi di potere. Se in questo paese colpano tutti sempre uno nuovo, ma la benzina che canta è quella che ha fatto l'uovo. Noi siamo quelli che non vogliono crescere mai. Noi quelli che hanno sempre combattuto col mondo. Noi quelli che ci hanno la calamita per uguale. Se qualcosa va bene la gioia dura un secondo. Noi che se qualcosa non è giusto lo diciamo. Noi che se ci dicono di star zitti crediamo. Noi che ad ogni minima occasione festeggiamo. Noi che anche se ci giudichi noi non ti giudichiamo. Non è la fine per noi, andiamo a testa alta, lampi nella notte siamo noi, senza un desiderio. Noi siamo quelli che non vogliono crescere mai. Noi quelli che hanno sempre combattuto col mondo. Noi quelli che c'hanno la calamita per uguale. Se qualcosa va bene la gioia dura un secondo. Noi che se qualcosa non è giusto lo diciamo. Noi che se ci dicono di star zitti crediamo. Noi che ad ogni minima occasione festeggiamo. Noi che anche se ci giudichi noi non ti giudichiamo. Noi brividi.